Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Spettabile redazione, vorrei sottoporvi una questione che secondo me investe una dimensione di civiltà nel nostro rapporto con gli altri, e cioè l'uso del termine badante. La parola badante, oltre a costituire un pessimo neologismo, mi pare quasi offensiva sia per il lavoratore sia per il cosiddetto badato. Infatti, il cosiddetto o la cosiddetta badante svolge spesso funzioni molto delicate, che vanno ben al di là della mera sorveglianza. Governante, parainfermiera, compagnia e sostegno psicologico al proprio assistito e non di rado anche amministratrice del bilancio spicciolo. Vedi fare la spesa di casa, eccetera. Il cosiddetto badato, invece, non deve essere considerato un oggetto che perde la propria dignità di persona per il semplice fatto che non è più autosufficiente. Di solito, quando si dice «si bada», ci si riferisce a qualcosa che ingombra, dà fastidio, o addirittura è pericoloso, come gli animali o il rischio di eventi naturali. Per queste ragioni, il termine badante mi sembra che acquisti inequivocabilmente un significato lesivo della dignità di entrambi i soggetti. Proporrei quindi di sostituirlo con il termine più dignitoso di assistente familiare. Se mi si obietta che badante è più corto di assistente familiare, posso rispondere che vi sono decine e decine di altri casi in cui si usa un termine più lungo pur di salvaguardare il rispetto verso il destinatario. Luciano. Gentile Luciano, la sua attenzione alle forme è sicuramente encomiabile e va al di là di quella mania del politicamente corretto che spesso ha dato origine a modi di dire che, tentando di mascherare una realtà, la rendono invece più facilmente individuabile. Auguro quindi successo alla sua iniziativa, anche se mi sembra complesso che il linguaggio corrente abbandoni un termine facile e che rende ormai con immediatezza l'idea di quello che esprime. Vi è comunque da ricordare che nei documenti ufficiali, a partire dai testi di legge, il termine badanti viene utilizzato quasi sempre solo per rendere più esplicito il fatto che si parli di persone che svolgono attività di lavoro domestico e di assistenza familiare. La definizione è comunque importante, ma ancora più importante è considerare queste persone in tutta la loro dignità, per il sostegno che danno a quanti sono in difficoltà, alle famiglie e quindi all'intera società. Vorrei intervenire sulla buona uscita di 10 milioni chiesta da Michele Santoro alla RAI. Certo che, rapportati ai redditi medi dei cittadini e ai meriti professionali, i compensi di Santoro sono eccessivi. Ma se lo share che Santoro procura alla RAI consente spot pubblicitari che coprono i costi della trasmissione, Santoro compreso, siamo nell'ambito di una legge di mercato. Ora, perché questi conduttori prendono così tanto? Semplice. Perché se non li accontenti, possono minacciare di passare alla concorrenza, che in Italia per ora è solo Mediaset o La 7. È la legge della domanda e dell'offerta. Quale può essere il rimedio, a mio avviso? Aumentare l'offerta, cioè far crescere una classe di giornalisti e conduttori televisivi. Questo dovrebbe essere, tra l'altro, il compito principale di una TV pubblica, che contribuirebbe anche a creare nuovi posti di lavoro. Oggi, tra scuole di giornalismo, facoltà di scienza della comunicazione, per non parlare del DAMS, ci sono legioni di giovani che si preparano a lavorare nel mondo della comunicazione radiotelevisiva e, diciamo pure, dello spettacolo, perché è indubbio che Santoro fa un'informazione spettacolo, ben diversa, per esempio, da quella di Report della Gabanelli. Vuol dire che invece di avere un conduttore che prende 2 milioni di euro all'anno, avremo 20 cronisti d'assalto da 100.000. Vi pare un'idea così peregrina? Il fatto è che in RAI non c'è la volontà di aprire le porte a nuove professionalità, anche, penso, per ragioni politiche e per la resistenza degli stessi anchormen che diventano famosi e influenti grazie alla sovraesposizione mediatica e quando si sono inseriti nella nicchia dei loro spazi televisivi non hanno nessuna intenzione di mollarla. Luigi da Sanremo. Io sarei per una soluzione rivoluzionaria che applicherebbe la vera meritocrazia anche nei palazzi politici. Perché non applicare un sistema di retribuzione provvigionale ai nostri politici? Solo chi raggiunge i risultati sarà pagato. Mi sembra così semplice. Enrico. Riguardo alla misura del compenso dei politici, più volte si è parlato di percentuali di riduzione, altre volte di confronto con i compensi dei dirigenti industriali. Ritengo che nessuna di queste metriche sia corrette. La più coerente è quella che rapporta i compensi globali dei nostri politici alla media dei loro colleghi degli altri paesi europei, Italia esclusa per eccesso di rialzo. Questo confronto presuppone però l'equivalenza del tipo di attività e responsabilità politica, sociale, amministrativa ed economica. Una seconda considerazione riguarda in modo più ampio i costi di gestione del nostro Stato, che comprendono anche i costi della giustizia, delle amministrazioni centrali e di quelle locali. Anche in questo caso si dovrebbe applicare il modello della media europea, sempre escludendo l'Italia. Infine, bisognerebbe tenere in considerazione il numero di parlamentari e i doppi e tripli incarichi. Anche in questo caso noi italiani brilliamo per indecente surplus. Ezio. Io credo che chi fa politica oggi goda di una posizione eccessivamente privilegiata, che comporta una distanza siderale dalla realtà con cui i cittadini comuni si confrontano ogni giorno. Chi, come i politici, può disporre liberamente di somme tra i 10 e i 20 mila euro mensili, perde completamente il senso della misura. Come può capire i problemi di chi deve contare anche le monete che ha in tasca prima di decidere se comprare il latte fresco oppure il più economico latte a lunga conservazione? Secondo me i politici dovrebbero percepire uno stipendio non superiore ai 5.000 euro mensili, ai quali aggiungere il rimborso delle spese connesse all'attività svolta, dietro presentazione di opportuna documentazione. I cosiddetti portaborse dovrebbero essere dipendenti della Camera e del Senato, così sarebbero pagati direttamente dalle relative amministrazioni, anziché dai politici, che spesso ne approfittano per arrotondare i propri emolumenti. La pensione dovrebbe essere erogata in base ai contributi versati e non ottenuta con una sola legislatura. E poi basta con la libera circolazione su aerei, treni e autostrade, ovviamente con l'esclusione dei viaggi di servizio. Altro che 5%. Riccardo, Roma. Intervenendo alla vostra radio, la deputata del PD, Anna Paola Concia, ha detto che è vero che guadagna 15.000 euro al mese, però ne spende oltre 10.000 per la propria attività politica. Credo sia stata fatta un po' di confusione sullo stipendio dei parlamentari. Si è parlato di 15.000 euro lordi. Da quello che vedo io in internet, sono 15.500 euro circa netti, composti da stipendio, indennità di diaria, spese telefoniche e rimborsi vari, ai quali vanno aggiunti rimborsi per spese di rappresentanza e spese varie, e si arriva a 17.000 euro netti. Sono esclusi gli altri benefici, quali i viaggi gratis, le autostrade, eccetera. In più hanno un rimborso da 13.000 a 16.000 euro all'anno, descritto come spese di trasporto e spese di viaggio. I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea, per i trasferimenti sul territorio nazionale, per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale per un minimo di 3.300 euro, a seconda della distanza. I deputati, qualora si rechino all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100 euro. In tutto, quindi, non intascano meno di 230.000 euro netti all'anno. Direi che è una vergogna. Aurelio. Spettabile redazione. Da ieri sono in funzione altri due autovelox, che si aggiungono ai due già esistenti nel tratto di strada che percorro ogni giorno per andare in ufficio. Un totale di circa 1.760 postazioni incrociate in un anno solamente per recarmi in ufficio. Guidare per me è un piacere. Quando sono alla guida ascolto il motore, osservo le altre auto, eventuali pedoni, lo stato penoso del manto stradale e tutte le cose che ritengo contribuiscano alla sicurezza mia e degli altri. Da ieri, grazie ai comuni che attraverso per andare al lavoro, un'altra buona fetta di queste attenzioni dovrà invece essere tolta alla sicurezza e dedicata alle infernali macchinette produttrici di multe. Rispondo già a coloro i quali replicheranno dicendo che basterebbe rispettare i limiti per non aver pensieri. La sicurezza non è fatta solo di limiti. Anzi, sono un convinto sostenitore che alcune di queste postazioni autovelox, al contrario, riducano il livello di sicurezza. Solo un ipocrita potrebbe sostenere che tali meccanismi siano installati per garantire maggior sicurezza sulle strade. Lo dimostrano le postazioni mobili, spesso occultate illegalmente e presidiate da operatori in borghese, con il solo scopo di verificare il funzionamento dell'infernale macchinetta e senza alcuna intenzione di valutare l'opportunità di fermare e multare l'automobilista che lo meriti. Spero che queste due righe facciano riflettere sull'opportunità per l'uomo di creare meccanismi che gli si ritorcano contro senza alcuna reale utilità se non quella di alimentare in maniera malsana le tasche di pochi. Massimo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci